ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Le 10. Soltanto questo. Ogni minuto di questa giornata è trascorso in un batter d'occhio. Ma la giornata tutta intera mi rimane dentro come un dono pieno di consolazione. Un ricordo che potrà essere necessario e che ci accompagnerà come una realtà sempre presente. E ogni frase di questa giornata faceva impallidire quelle che l'avevano preceduta. Non si può puntare esclusivamente sulla conservazione o sulla distruzione. Tutte e due esistono come possibilità estreme, ma non ci si può fissare su nessuna delle due. Quel che conta, piuttosto, è che si affrontino le cose urgenti di ogni giorno. Ieri sera parlavamo di campi di lavoro. Io dicevo: non posso farmi nessuna illusione. Il mio corpo non vale niente e sarò morta in 3 giorni. Werner era d'accordo per parte sua. Mentre Lise l'ha detto: non so, io ho la sensazione che me la caverei. Posso capirla bene. Una volta ero come lei, sentivo di possedere un'energia indistruttibile. È un nucleo di forza che continuo a portarmi dentro, ma anche questo non va inteso in senso troppo materialistico. La questione non è se il corpo poco esercitato possa resistere, questo è relativamente secondario. La forza autentica, primaria, consiste in ciò che se anche si soccombe miseramente, fino all'ultimo si sente che la vita è bella e ricca di significato, che si è realizzato tutto quanto in noi stessi e che la vita era buona. Non riesco tanto a esprimermi. Finisco sempre per usare le stesse parole. Lunedì mattina, le 11. Forse posso scrivere per un'ora di seguito sulle cose più importanti. Rilke scrive da qualche parte al suo amico paralizzato Ewald, ma ci sono dei giorni in cui egli invecchia, i minuti gli passano sopra come anni. Così, ieri, le molte ore del giorno sono passate sopra di noi. Quando ci siamo salutati, mi sono appoggiata per un momento a lui e gli ho detto: vorrei rimanere ancora a lungo con te, il più possibile. Nel suo viso, la bocca era così dolce, indifesa e malinconica, quando ha risposto, quasi trasognato: già, ognuno di noi avrà pure i suoi desideri. E ora mi domando, non dobbiamo cominciare già adesso a congedarci da questi desideri? Se si comincia ad accettare, non si deve accettare tutto allora? Stava contro il muro della camera di Dicky. Io ero appena appoggiata a lui dolcemente. All'apparenza non c'era nulla di diverso da tanti altri momenti simili nella mia vita, ma per me fu improvvisamente come se un cielo da tragedia greca si stendesse sopra di noi. Per un momento tutto si è confuso ai miei sensi. Io mi trovavo con lui nel mezzo di uno spazio infinito, carico di minacce, ma anche di eternità. Forse è stato allora che si è compiuta in noi una grande e definitiva trasformazione, ieri. È rimasto ancora un momento appoggiato al muro e ha chiesto, con tono quasi lamentoso: stasera devo scrivere alla mia amica, che avrà il suo compleanno tra poco, ma cosa devo scriverle? Mi manca la voglia e l'ispirazione. Gli ho detto: devi cercare fin d'ora di riconciliarla con l'idea di non rivederti più. Devi fornirle dei punti d'appoggio per la sua vita futura. Devi aiutarla a riconoscere che in tutti questi anni avete continuato a vivere insieme, malgrado la lontananza fisica, che lei ha il dovere di continuare a vivere nel tuo spirito e di conservarne un pezzetto per questo mondo. Ecco ciò che conta. Così ci si parla oggi. Discorsi di questo genere non sembrano neppure più assurdi Siamo entrati in una nuova realtà e ogni cosa ha preso colori e accenti diversi. E tra i nostri occhi, le nostre mani e le nostre bocche scorre un flusso ininterrotto di dolcezza e di tenerezza, in cui sembra che si sia spento ogni più piccolo desiderio. Ormai si tratta semplicemente di essere buoni l'uno verso l'altro, con tutta la bontà di cui siamo capaci. E ogni riunione è anche un addio. Stamattina mi ha detto al telefono, quasi trasognato: era bello ieri. Cerchiamo di stare insieme il più possibile durante il giorno. E ieri pomeriggio eravamo seduti al suo tavolino rotondo e come due scapoli ancora viziati ci godevamo un pranzo abbondante che non aveva alcun rapporto con la situazione attuale. Quando gli ho detto che non volevo lasciarlo, ha risposto con un tono improvvisamente severo e solenne: non dimentichi ciò che lei dice sempre, non può dimenticarlo. E non mi sembrava più di essere come una bambinetta in un dramma che supera la sua capacità di comprensione, come succedeva tanto spesso in passato. Qui invece si trattava della mia vita e del mio destino, ed ero in grado di sopportarli. E il mio destino, con tutte le minacce, insicurezze, fede e amore, mi andava a pennello, come un vestito che fosse stato cucito appositamente per me. Gli voglio bene con tutto il disinteresse che ho scoperto di possedere e non voglio minimamente pesare su di lui con le mie esigenze e con le mie paure. Rinuncerò persino al desiderio di rimanergli accanto fino all'ultimo momento. Il mio essere si sta trasformando in un'unica grande preghiera per lui. E perché solo per lui? Perché non anche per gli altri? Ci vanno anche ragazzine di 16 anni nei campi di lavoro. Noi che siamo più vecchi dovremo prenderle sotto la nostra protezione quando sarà il turno delle nostre ragazze olandesi. Ieri sera volevo dirlo a Anne che ci vanno anche le ragazze di 16 anni, ma sono stata zitta, pensando che avrei potuto essere buona anche con lui e che non era il caso di caricarlo di altri pesi. Non posso forse risolvere queste cose da sola? Certo che ognuno di noi deve sapere, ma non si deve anche essere buoni con gli altri. Non si deve evitare di caricarli tutto il tempo di pesi che possiamo benissimo portare da soli. Soltanto qualche giorno fa pensavo ancora: il peggio verrà quando non mi sarà più concesso di tenere matita e carta per chiarirmi le idee di tanto in tanto. Senza questa possibilità, che per me è di un'importanza essenziale, potrei anche scoppiare e distruggermi dentro. E ora so che se si comincia a rinunciare alle proprie pretese e ai propri desideri, si può rinunciare a tutto. L'ho imparato in questi giorni. Forse potrò rimanere qui ancora per un mese. E poi anche questa scappatoia nelle disposizioni verrà scoperta. Incomincerò a far ordine nelle mie carte e ogni giorno dirò addio. E così il vero addio sarà solo una piccola conferma esteriore di ciò che di giorno in giorno si è già compiuto dentro di me. Sono in uno stato d'animo così singolare. Sono proprio io a scrivere qui, così tranquilla e matura. Qualcuno mi potrebbe capire se dicessi che mi sento così stranamente felice, non in modo artificioso o altro, ma in tutta semplicità, perché mi sento crescere dentro dolcezza e fiducia di giorno in giorno. Perché tutta la confusione e le minacce e i pesi non mi portano neanche per un momento all'alienazione mentale? Perché continuo a vedere e a sentire la vita così chiara e nitida in tutti i suoi contorni? Perché nulla offusca i miei pensieri e i miei sentimenti? Perché posso sopportare e accettare tutto? E perché la coscienza del bene che c'è stato nella vita, anche nella mia vita, non è stata soppiantata da tutte queste altre cose, anzi diventa sempre più parte di me? Non oso quasi aggiungere altro. Non so che cosa sia, È come se mi spingessi troppo oltre nel mio distacco da tutto ciò che porta la maggior parte delle persone vicino all'alienazione mentale. Se sapessi con certezza di dover morire la prossima settimana, potrei rimanere a studiare alla mia scrivania per tutto questo tempo, nella massima tranquillità di spirito e senza che questa sia una fuga. Io so, ora, che vita e morte sono significativamente legate fra loro. Sarà uno scivolare dall'una nell'altra, anche se la fine potrà essere triste o persino orribile nella sua forma esteriore. Dovremo passare ancora per tante vicissitudini. Diventeremo poveri, poi, a lungo andare, saremmo ridotti all'indigenza. Ogni giorno perdiamo un po' delle nostre forze, e questo è dovuto non solo alle nostre paure e insicurezze, ma anche a piccoli e semplici fatti concreti, come quello di poter entrare in sempre meno negozi o di essere costretti a percorrere lunghi tratti a piedi, cosa che già sta logorando molte persone che conosco. La nostra distruzione si avvicina furtivamente da ogni parte. Presto il cerchio sarà chiuso intorno a noi e nessuna persona buona che vorrà darci aiuto lo potrà oltrepassare. Per ora ci sono ancora tante piccole aperture, ma anche queste saranno turate tra breve. È curioso come ha fatto l'uomo. Ora c'è un tempo freddo e piovoso, come se dall'altopiano di una fosa notte estiva uno fosse improvvisamente scaraventato in una valle fredda e umida. Anche l'ultima notte che ho passato con Ann era sul filo del confine tra caldo e freddo. Era ieri sera. Parlavamo davanti alla finestra aperta delle gravi questioni che sono in gioco in questo momento. Il suo viso era così stravolto che ho pensato: questa notte piangeremo abbracciati. Abbracciati ci siamo, ma non abbiamo pianto. Solo nell'estasi della fine, mentre il suo corpo era steso sul mio, sono stata improvvisamente sopraffatta da un'ondata di tristezza che era profondamente umana, e poi da un sentimento di compassione per me e per tutti, e poi ancora mi pareva che tutto fosse come doveva essere. Nel buio ho potuto nascondere la mia testa fra le sue spalle nude e ho assaporato le mie lacrime da sola. E poi di colpo ho dovuto pensare a quella torta della signora V oggi pomeriggio e allo strato di fragole che la ricopriva e m'è venuto da ridere fra me e me quasi con allegria. E ora devo occuparmi del pranzo e alle 2 vado da lui. Potrei aggiungere che non ho lo stomaco a posto, ma mi sono proposta di non scrivere più della mia salute. Costa troppa carta e me la cavo ugualmente. Una volta ne scrivevo a lungo perché non sapevo bene come regolarmi con questi problemi, ma ora sono cose superate, perlomeno così mi sembra. Sono un po' avventata e presuntuosa? Non lo so. Sette luglio, martedì mattina, le 9:30. Mien ha appena telefonato che ieri Misha ha passato la visita per essere mandato nel Trente. L'esito non si sa ancora. La mamma è alzata, diceva, e papà legge molto. Lui ha tanto dentro di sé. Le strade che si percorrono in bicicletta non sono più del tutto le stesse. I cieli al di sopra sono così bassi e minacciosi e paiono cieli da temporale, anche col sole radioso. Si vive ora fianco a fianco con il destino, o comunque lo si voglia chiamare. Si trovano anche i comportamenti per convivere quotidianamente con esso. E tutto è molto diverso da quel che un tempo potevamo leggere su tutti i libri. Per me, io so questo. Dobbiamo abbandonare le nostre preoccupazioni per pensare agli altri che amiamo. Voglio dir questo. Si deve tenere a disposizione di chiunque si incontri per caso sul nostro sentiero e che ne abbia bisogno tutta la forza e l'amore e la fiducia in Dio che abbiamo in noi stessi e che ultimamente stanno crescendo in modo così meraviglioso in me. Esse diceva ieri: Mi sono maledettamente abituato a lei. E Dio sa quanto maledettamente io mi sia abituata a lui. Ma devo abbandonarlo ugualmente. Voglio dir questo. Dal mio amore per lui devo attingere forza e amore per chiunque ne abbia bisogno. Ma questo amore e preoccupazione per lui non devono consumarmi al punto da togliermi le forze, perché anche questo sarebbe egoistico. E persino dalla sofferenza si può attingere forza. E con l'amore che sento per lui posso nutrirmi una vita intera e altri insieme con me. Bisogna essere coerenti sino alla fine. Si può dire: fin qui posso sopportare tutto, ma se gli succede qualcosa o se devo lasciarlo, allora non posso più continuare. Anche in quel caso bisogna proseguire, o l'uno o l'altro ora. O si pensa soltanto a se stessi e alla propria conservazione senza riguardi, o si prendono le distanze da tutti i desideri personali e ci si arrende. Per me questa resa non si fonda sulla rassegnazione che è un morire, ma si indirizza là dove Dio per avventura mi manda ad aiutare come posso e non a macerarmi nel mio dolore e nella mia rabbia. Sono ancora in uno stato d'animo singolare. Potrei dire, è come se mi librassi invece di camminare, come se non vivessi dentro alla realtà, come se non sapessi cosa sta succedendo. Qualche giorno fa scrivevo ancora, voglio star seduta per un pochino alla mia scrivania e studiare per me. Questo non si fa più. Cioè, succederà un giorno, ma a questa pretesa bisogna rinunciare. Bisogna rinunciare a tutto per poter fare in un giorno le migliaia di piccole cose che vanno fatte per gli altri, senza smarrirsi. Werner diceva ieri: noi non traslochiamo più, non ne vale la pena. E mi guardava e diceva: se almeno potessimo partire insieme. Il piccolo Vale si guardava tristemente le gambette magre e diceva: questa settimana devo comprarmi ancora 2 paia di mutande lunghe, come devo fare? E rivolto agli altri: se solo potessimo essere nello stesso scompartimento. La prossima settimana, partenza 1:30 di notte. E il viaggio in treno sarà gratis, sì, proprio gratis. E non si possono portare animali domestici, così era scritto in quell'ordinanza. Inoltre, che bisogna portarsi le scarpe da lavoro e 2 paia di calze e un cucchiaio, ma niente oro e argento e platino, quello no. Sì, invece, la fede, commovente. Quella si può ancora tenere. E io non mi porto nessun cappello, diceva F, ma un berretto, quello sì che andrà bene. E così eccoci alla nostra ora amara. Tornando a casa ieri sera per il consueto amaro, pensavo: in nome del cielo, come posso dar lezione per un'ora adesso, su quell'ora e mezza con V, con la sua liscia testa da ragazzo e i suoi occhi provocanti, potrei scrivere un libro intero. Spero di potermi ricordare tutto di questo periodo, di poterne più tardi raccontare qualcosa. È tutto ben diverso da quel che si legge sui libri, molto diverso. Non posso scrivere dei 1000 dettagli che vivo quotidianamente. Spero di ricordarmeli. Noto che la mia capacità di osservazione registra tutto così esattamente e ne provo un piacere singolare. Nella generale rovina delle cose, in tutta la mia stanchezza, sofferenza e così via, rimane pur sempre la mia gioia, la gioia dell'artista nell'osservare le cose e nel trasformarle nel suo spirito in un'immagine sua. Leggerò l'ultima espressione dal viso dei moribondi, con partecipazione, e la conserverò. Soffro con coloro con cui ora parlo tutte le sere e che la prossima settimana lavoreranno in un luogo minacciato di questa terra, in una fabbrica di munizioni o Dio sa dove. sempre che possano ancora lavorare. Ma io registro in me ogni piccolo gesto, parola, espressione del loro volto e lo faccio con una concretezza quasi fredda e oggettiva. Ho la disposizione dell'artista e credo che più tardi, quando sentirò la necessità di raccontare tutto, avrò anche abbastanza talento per farlo. Di pomeriggio. Un amico di Bernard ha incontrato un soldato tedesco che gli ha chiesto una sigaretta. Ne è venuto fuori un dialogo da cui risultava che il soldato era austriaco, un tempo professore a Parigi. Voglio conservare una frase del dialogo riferito da Bernard. Il soldato diceva: «In Germania ci sono più soldati uccisi dalla caserma che dal nemico». Quell'uomo che lavora in borsa diceva domenica mattina, da Leo Crane, «Dobbiamo pregare di tutto cuore che succeda qualcosa di buono, finché conserviamo la disposizione verso questo qualcosa di buono». Infatti, se il nostro odio ci fa degenerare in bestie come lo sono loro, non servirà più a nulla. I miei piedi, ancora inabili, mi preoccupano moltissimo. Spero che la mia vescica sarà guarita a quel punto, altrimenti sarò certamente di peso quando saremo pigiati tutti quanti insieme. E poi dovrò andare finalmente dal dentista. Tutte le cose indispensabili che sono state rimandate per una vita intera devono essere sbrigate con urgenza, credo. E lascio perdere anche questo frugare nella grammatica russa. Per i primi mesi ne saprò abbastanza per i miei allievi. È meglio che finisca di leggere L'idiota. Non faccio neppure più riassunti di libri. Ci vuole troppo tempo e non potrò trascinarmi dietro tutta quella carta. Con la mente estrarrò dalle cose ciò che è essenziale e lo terrò in serbo per i momenti di necessità. E potrò anche abituarmi meglio alla mia partenza se, con diverse piccole azioni, mi renderò sempre più conto di questo distacco, di modo che l'ultima fine non giunga come un colpo troppo pesante, liquidando lettere, carte e vecchie cose che stanno in giro nei cassetti della mia scrivania. Penso però che Misha sarà giudicato inabile. Devo andare a dormire più presto, altrimenti ho sonno di giorno e questo non va. Prima che Liesel parta per il Drente, devo vedere di mettere le mani sulla lettera del nostro soldato tedesco Kascher per conservarla come documento umano. Dopo la grandissima, schiacciante disperazione del primo momento, quella storia ha preso molte pieghe singolari. La vita è così curiosa e sorprendente e infinitamente piena di sfumature. A ogni curva del suo cammino si apre una vista del tutto diversa. La maggior parte delle persone ha nella propria testa delle idee stereotipate su questa vita. Dobbiamo, nel nostro intimo, liberarci di tutto, di ogni idea esistente, parola d'ordine, sicurezza. Dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto, ogni norma e appiglio convenzionale. Dobbiamo osare il gran salto nel cosmo. E allora sì che la vita diventa infinitamente ricca e abbondante, anche nei suoi più profondi dolori. Vorrei poter aver letto tutto Rilke prima che arrivi il giorno in cui forse non potrò più leggere per molto tempo. Mi immedesimo molto intensamente nel piccolo gruppo di persone che ho conosciuto per caso da Werner e Liesel e che la prossima settimana sarà deportato per lavorare in Germania sotto la sorveglianza della polizia. Stanotte ho sognato che dovevo preparare la valigia. Era una notte inquieta, soprattutto le scarpe mi facevano male. Come si doveva fare con la biancheria e il cibo per 3 giorni e le coperte, tutto in una valigia o in uno zaino? Però rimarrà ancora posto per la Bibbia in un angolino. E se possibile per il libro d'ore e per le lettere a un giovane poeta. di Rilke. E mi piacerebbe tanto portare con me i vocabolarietti russi e l'idiota per non perdere l'esercizio della lingua. Questo mi può naturalmente succedere, ne sarà un caso molto curioso. Se io dichiaro alla nostra registrazione insegnante di lingua russa, sarà un caso unico e le conseguenze non si possono prevedere facilmente. Dio sa per quali vani giri finirò ancora per andare in Russia, una volta che abbiano messo le mani sulla mia conoscenza delle lingue e del resto. Le 8. Ecco, ora si mette un coperchio sul chiasso di questa giornata e questa sera, con tutta la pace e la concentrazione che sono in me, è mia. Una rosa tea gialla sta sulla mia scrivania tra due vasetti di viole. L'ora dell'amaro è passata. Esse chiedeva, del tutto esausto, come resistono i levi ogni sera? Io non resisto più, mi sento a pezzi. E ora lascio dietro di me tutte le dicerie e tutte le realtà. Ora si studia e si legge per tutta una sera. E io come sto? Nessuna delle preoccupazioni e delle minacce di questa giornata mi è rimasta attaccata. Sto qui, seduta alla mia scrivania, così vergine e appena nata, così disposta a studiare come se nel mondo non succedesse niente. Tutto m'è completamente caduto di dosso. Nulla ha lasciato una traccia, mi sento così ricettiva come non mai. La prossima settimana probabilmente tutti gli olandesi saranno chiamati al controllo. Di minuto in minuto desideri, necessità e legami si staccano da me. Sono pronta a tutto, a ogni luogo di questa terra nel quale Dio mi manderà. Sono pronta, in ogni situazione e nella morte, a testimoniare che questa vita è bella e piena di significato e che non è colpa di Dio, ma nostra, se le cose sono così come sono, ora. Abbiamo ricevuto in noi tutte le possibilità per sviluppare i nostri talenti. Dovremo ancora imparare a far buon uso di queste nostre possibilità. È come se in ogni momento altri pesi mi cadano di dosso, come se tutti i confini che oggi ci sono tra persone e popoli non esistano più. In certi momenti è proprio come se la vita mi fosse divenuta trasparente, e così anche il cuore umano, e io vedo e capisco sempre di più, e dentro di me sono sempre più in pace, e c'è in me una fiducia in Dio che in un primo tempo quasi mi spaventava per la sua crescita veloce, ma che sempre più diventa parte di me. E ora al lavoro. Giovedì mattina, 9:30. E parole come Dio e morte e dolore e eternità si devono dimenticare di nuovo. Si deve diventare un'altra volta così semplici e senza parole come il grano che cresce o la pioggia che cade. Si deve semplicemente essere. E io? Sono io già abbastanza avanti da poter dire sinceramente: spero di andare al campo di lavoro per poter essere di appoggio alle ragazzine di 16 anni che ci vanno anche loro? Per rassicurare i genitori rimasti indietro, non siate inquieti, io vigilerò sui vostri figli. Quando dico che fuggire o nascondersi non ha il minimo senso, che non ci sono scappatoie e che val meglio rimanere con gli altri e cercare di essere per loro quel che ancora siamo in grado di essere, sembra che io sia molto, troppo rassegnata. Sembra che il mio atteggiamento sia del tutto diverso da come l'intendo io. Ancora non ho trovato il tono giusto per spiegare questo mio sentimento intatto e gioioso, in cui sono compresi tutti i dolori e tutte le passioni. Parlo ancora con un tono filosofico e libresco, come se mi fossi inventata una teoria consolatoria per rendermi più piacevole la vita. Per il momento farei meglio a tacere e a essere.